Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, quella di oggi è una delle nostre puntate speciali realizzata a Tutto Food, l'esposizione internazionale per gli operatori del settore agroalimentare a Fiera Milano Ro dall'8 all'11 maggio, evento che quest'anno è stato l'occasione per organizzare la prima Food Week della città, una sorta di fuorisalone del palato nell'ambito di Milano Food City, perché sull'onda lunga di Expo 2015 Milano vuole diventare la nuova capitale del cibo e dare vita a un appuntamento internazionale, una sorta di Davos del cibo. A dare corpo a questo scenario la presenza dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama a Seeds & Chips, il Global Food Innovation Summit dedicato a cibo e innovazione, un appuntamento che noi di Essere Avere abbiamo seguito fin dai suoi esordi. Questa è la terza edizione e che quest'anno per la prima volta si è alleato con Tutto Food. Sono Laura Cavalleris, lavoro alla Bosca e produciamo questo Toselli spumante Halal, analcolico, vino spumante analcolico certificato Halal. Prendiamo le uve moscato, produciamo un mosto e viene bloccata la fermentazione, perciò non è uno spumante dealcolato, ma è un mosto al quale viene bloccata la fermentazione in modo tale che non si produca alcol, e allora rimane uno spumante senza alcol, completamente senza alcol, che mantiene però il gusto, il profumo delle uve moscato. Vendiamo soprattutto nei paesi, in Italia naturalmente, e nei paesi dell'Europa del Nord, paesi africani e poi in altre parti del mondo, va abbastanza bene. Adesso siamo agguerriti per attaccare i paesi musulmani, arabi, asiatici. Mentre la politica costruisce i muri, il mondo del cibo invece li abbatte. Il mercato del food si apre a nuovi prodotti e valorizza tradizioni e culture lontane integrandole con i trend del momento. Allora salutiamo le prime due ospiti di questa puntata speciale da Tutto Food 2017, Romina Marchese dell'ufficio commerciale del Perù a Milano, ben trovata. Grazie. E Ine Park dell'Istituto Culturale Coreano, benvenuta anche a lei. Buongiorno. Allora, partiamo dal Perù con Romina Marchese. Il Perù è protagonista in questo periodo con la cucina, la ristorazione, nuovi chef alla ribalta, ma anche protagonista degli scaffali dei nostri supermercati e quindi anche delle dispense di casa con i cosiddetti superfoods. Sono tutti quei cibi che garantiscono benefici alla salute. Un mercato in grande crescita, i dati ve li abbiamo raccontati in altre occasioni, sono numeri addirittura se non a doppia, a tripla cifra. Allora partiamo da un alimento che ormai tutti conoscono e magari non tutti sanno che ha le origini peruviane, la quinoa, ecco. Allora, i superfoods del Perù sono tutti gli alimenti con elevato valore nutrizionale che il nostro paese offre e che sono relazionati alla salute e all'alimentazione salutare. C'è stato il boom della quinoa che effettivamente è sulla tavola di tutti gli italiani, però adesso vorremmo introdurre dei nuovi prodotti con altre proprietà. Per esempio il camu camu. Il camu camu è un frutto nativo dell'Amazzonia, è il più ricco in vitamina C assolutamente di tutto il pianeta, molto di più dell'arancio. Poi abbiamo la lucuma, che è un frutto ideale per la gelateria e la pasticceria. Ha un sapore tra butterscotch, caffè, è inspiegabile. Però riduce anche il colesterolo e rafforza il sistema immunitario. Poi abbiamo la macca, che è una radice ricca in carboidrati, proteine e minerali. E questo si prende tutte le mattine e ti dà una marcia in più. E poi abbiamo la chia, che è ricca in fibre e in omega 3. Quindi quelli che noi in Italia chiamiamo semi di chia? Esattamente. Così? Okay. Sì. In realtà si pronuncia Chia, allora Chia. Abbiamo già imparato una cosa diversa. Poi ci spieghi perché questo legame tra i superfoods e il Perù, però intanto vorrei andare da Ine Park. Anche la Corea del Sud affascina il mondo dei consumi. Tempo fa, per esempio, noi di Essere Avere avevamo dedicato una puntata alla K-Beauty, che è protagonista di un vero e proprio boom, ma anche il cibo coreano è pronto a conquistare il nostro mercato. Innanzitutto, con quali prodotti? Allora, siamo qui non solo promuovere la cucina coreana, ma appunto per capire il gusto italiano, i trend del mercato italiano. Allora abbiamo portato vari prodotti, per esempio le patatine di alghe, che sono una delle eccellenze coreane. Tra l'altro ha avuto grandissimo successo anche all'Expo 2015. E i chips di zenzero, che sono molto salutari e possono sostituire benissimo le patatine in occasione dell'aperitivo, anche come merenda, è perfetta. Poi raccontiamo il perché di questa cultura culinaria che fa parte di una tradizione millenaria in Corea. Torniamo al Perù, si diceva superfoods e biodiversità, è questo insomma il messaggio anche che come paese volete portare. Grazie alle diverse altezze del nostro territorio è che abbiamo una biodiversità così alta, perché noi abbiamo costa, abbiamo le montagne e poi abbiamo la giungla. Quello che produce nella costa ovviamente non lo puoi produrre nella giungla e noi abbiamo la fortuna di avere tutte e tre. Grande curiosità, ecco, che riscontro avete avuto? Abbiamo avuto un altissimo riscontro, abbiamo fatto anche delle degustazioni sia di quinoa che del gelato alla lucuma e veramente la gente penso che faceva più di un giro. Quindi insomma anche un viaggio nel vostro paese attraverso i cibi. Ecco, torniamo alla Corea, Ine Park. Sì. Abbiamo parlato di una tradizione millenaria, molto antica, come molte delle vostre tradizioni. Quindi voi usate il cibo per raccontare anche molto del vostro mondo, è così? Certo, la cucina coreana è una cucina sana e nutriente. E un paese come l'Italia, che mangiare bene, mangiare sano, sta diventando sempre più un trend importante, anche se lo è stato sempre. Per noi è un mercato molto importante. Da un certo punto di vista assomiglia un po' la cucina coreana con la cucina italiana, perché il modo di cucinare lentamente, delicatamente, per mantenere i propri gusti di ogni singolo ingrediente. Avendo tanti piatti cucinati insieme, pesce e carne insieme alle verdure, è un piatto unico, ricco di aspetti nutritivi. Quindi... E insieme alle salse fermentate nostre tradizionali che mettiamo un po' sempre però in tutti i piatti, per esempio kanjang, che è salsa di soia, è ormai molto nota anche in Italia, e gochujang, che è salsa di peperoncino fermentato, che dà un tocco di piccantezza molto leggero che richiama magari l'appetito. E quindi mi confermi anche in tutto quello che è la fascinazione pop della Corea, quindi il mondo manga viene in mente i colori, si ritrova ovviamente anche nella tradizione e nella cucina, così come abbiamo detto per quanto riguarda il Perù, la diversità appunto dei paesaggi. Ecco, voi che tipo di richiesta vi aspettate dal mercato italiano? Noi ci aspettiamo di ritrovare non solo la quinoa sulle tavole degli italiani, perché adesso tante persone ci dicono che a volte al posto della pasta stanno utilizzando la quinoa, e questo a noi fa molto piacere che nei piatti dei tutti i giorni, invece di fare un risotto con gli asparagi, al posto del riso utilizzano la quinoa. E ci piacerebbe che questo succedesse con tanti altri prodotti, perché sono prodotti che fanno bene alla salute e questo è quello che cercano gli italiani oggi. E anche molti chef la usano, sperimentano assolutamente nuove ricette. Chiudiamo con la Corea. Se dovesse scommettere su un alimento, come è stato per il Perù la quinoa, per la Corea quale potrebbe essere l'alimento che può avere più successo in Italia? Io direi il ginseng rosso, che è buonissimo. Mi permetto di dire che è il ginseng più famoso e più buono del mondo, che appunto noi abbiamo portato per adattare ai gusti italiani. Abbiamo fatto i chips come patatine, così potete magari assaggiare, degustare in vita quotidiana, insomma. Grazie a Ine Park e Romina Marchese per essere state con noi. Grazie a te, vi aspettiamo ad assaggiare il gelato alla lucuma. Ringrazio allora di nuovo gli ospiti di questa prima parte, ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché tra poco parleremo di gruppi di acquisto 2.0, di cibo del futuro, di innovazione, sostenibilità e spreco alimentare. Essere e avere. Io sono Nicola Sfigoli, sono il CEO di Ittiamo, la startup che seleziona i piccoli produttori italiani e li aiuta a crescere online e all'estero. Sono piccoli prodotti che di solito non sarebbero facili da raggiungere, quindi specialità locali, che noi portiamo online e valorizziamo anche a livello marketing. Noi siamo un po' i Robin Hood dei piccoli produttori, proprio perché riusciamo a prendere i piccoli e aiutarli a farsi conoscere anche nel mondo dei grandi. Sono Filippo di Robonica, io sono un ingegnere meccanico, produciamo sistemi idroponici per la coltivazione. L'idroponica è una tecnica di coltivazione che prevede l'assenza della terra, per cui le radici della pianta sono direttamente immerse nella soluzione acquosa contenente i nutrienti. Possono essere definiti anche elettrodomestici? L'Infa è il prodotto che è in fase di preordine attualmente e pensato proprio per l'uso privato dentro un appartamento. Noi proponiamo dei sistemi che sono in grado di fare il vero centimetro zero, produzione e consumo nello stesso luogo. Sono Matteo di BioSafe by Booking, siamo un sito web che mette in contatto i piccoli produttori biologici col consumatore finale. L'idea è di lavorare a lotto e su prenotazione in modo da ottimizzare tutte le varie fasi del processo produttivo e di tagliare i costi della distribuzione e del marketing. Vino, olio, crema di pistacchi, zafferano, miele, ma anche prodotti un po' più particolari come le alghe. Roberto Vellotti, Cook4Me è un'applicazione che mette in contatto persone che desiderano mangiare un piatto fatto in casa con chi è a casa e ha cucinato una pietanza domestica, quindi con uno chef domestico. Come sarà il cibo del futuro? Come la tecnologia impatterà sulla produzione, la distribuzione e il consumo di cibo nei prossimi anni, dai big data alle stampanti 3D nel cibo fino alle tecnologie per il ristorante e supermercato del futuro e poi l'e-commerce, la sharing economy, l'impatto dei millennial nella domanda e nell'offerta legata al cibo. Sono questi solo alcuni dei temi legati a cibo e innovazione protagonisti di Seeds & Chips e allora ne parliamo con gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio per questa seconda parte. Marco Ceriani, fondatore di Italvax. Buonasera. Paolo Nosenzo, responsabile comunicazione di Alveare che dice sì. Ciao a tutti. E Maurizio Pessato, presidente di SVG. Ben trovato anche a lei. Con Marco Ceriani, fondatore di Italvax, parliamo di insetti. Il cibo del futuro, secondo molti studi, in uno scenario in cui la domanda alimentare cresce, crescerà più dell'offerta, grandissime proprietà nutrizionali, Italvax è una startup di ricerca che si occupa appunto di nuovi alimenti da insetti edibili. Ecco Ceriani, però al di là del racconto più o meno enfatico che può essere fatto su questo tema, anche provocatorio in certi casi, raccontiamo bene cosa fate voi e qual è lo scenario in questo momento. Dopo Expo, perché Expo ha lasciato un'eredità importante in tutti noi, abbiamo trovato un terreno fertile sicuramente in Italia, non dal punto di vista legislativo, perché siamo andati in Olanda, abbiamo aperto una sede lì, un paese tra i diversi della comunità europea dove si può già utilizzare l'insetto a scopo alimentare, quindi è un cibo del futuro per l'Italia, anche se poi io ricordo sempre è un cibo del presente perché abbiamo formaggi come il casu marzo e del passato perché li citava già Leonardo da Vinci come cibo, fonte di cibo e di proteine, quindi è un prodotto che arriva dal passato, era la riscoperta della tradizione, spesso il futuro ce lo siamo dimenticati. Poi ci racconta di che tipo di prodotti parliamo, in radio le immagini non ci sono però le postiamo sulla nostra pagina Facebook, l'abbiamo già fatto, ci ha portato anche dei simpatici bachi da seta e poi ci spiega le caratteristiche, come li state utilizzando. Maurizio Pessato, presidente presidente SVG, Italiani e innovazione nel cibo. Voi avete appunto presentato a Seeds & Chips una ricerca che svela i livelli di comprensione e di accettazione su questo tema. Ecco, che cosa emerge? Sì, appunto proprio a fronte di quanto è stato proposto da questo forum si è cercato di vedere che tipo di riscontro avesse l'opinione pubblica sul tema dell'innovazione nell'alimentazione e si vede che oltre 2/3 sono convinti che vi sia una forte innovazione negli ultimi 10 anni, cioè hanno colto che nei vari settori che compongono l'agroalimentare c'è dell'innovazione necessaria per le esigenze nuove che emergono. Attorno a 1/3 invece segnala delle resistenze di varia natura o legate alla preoccupazione relativa alla non naturalità di un'innovazione nell'agroalimentare o una preoccupazione legata a magari idee che l'innovazione possa solo condurre a maggiori guadagni e non un vero miglioramento complessivo. Tra i positivi ho visto però, lo raccontiamo dopo, questa innovazione come chiave di sostenibilità. Paolo Nosenzo, l'alveare che dice sì, è una startup nata nel 2016 in Italia, un progetto che però in Francia ha origini più antiche. Raccontiamo di cosa si tratta. Allora, l'alveare che dice sì è una piattaforma online per comprare direttamente dai contadini e dagli allevatori locali, quindi un utente si registra sul sito gratuitamente, non c'è abbonamento minimo d'acquisto, fa la spesa con prodotti della sua zona, quindi entro un raggio massimo di 30-40 km circa, e poi va a ritirare la spesa in questi alveari che sono punti di consegna in vari quartieri della città. Quando va a ritirare, la cosa bella è che lì presenti ci sono proprio i produttori che hanno portato le cassette, tutte diciamo gli ordini dei clienti, e sono lì anche proprio per parlare col cliente, quindi farsi conoscere, far assaggiare dei prodotti, rispondere a qualsiasi domanda il cliente abbia per chiarire dubbi sui metodi di produzione, conservazione, su come si cucina un certo prodotto. E quindi si ricrea, diciamo, questo piccolo momento conviviale in cui si conoscono i propri vicini di quartiere e i produttori locali. Quindi un gruppo d'acquisto 2.0 in pratica, sì, è una sì. Comunità che nasce online però che poi trova, esatto, molti che poi, contatti esattamente, nella usiamo vita reale, la nel cosa, mondo fisico. La cosa bella è che usiamo le nuove tecnologie però per tornare, diciamo, indietro a un periodo in cui si conosceva il proprio ortofrutticolo di fiducia, il proprio allevatore di fiducia. E ovviamente poi la rete è su tutta Italia, quindi c'è anche proprio un discorso del supportare i produttori della propria zona. E tra poco parliamo dell'iniziativa che avete lanciato, questa lanza con Slow Food in occasione proprio di Seeds & Chips Ceriani. Quindi non parliamo ovviamente di insetti nel piatto, ma di matrici alimentari come le farine ad esempio. Addirittura ho visto un panettone con farina da baco da seta, gli amici che abbiamo qui con noi in studio. Il progetto è partito nel 2006 dalla Thailandia, Ital Bugs, poi si è radicato in Italia, ovviamente siamo italiani, siamo orgogliosi di esserlo, e abbiamo studiato diversi tipi di insetti. Ricordiamo che per la FAO sono 1900, per il Belgio invece, che è stato il primo paese in Europa a presentare al legislatore una bozza di legge, sono 10, e tra cui il baco da seta. Baco da seta perché quando si dice che l'insetto non appartiene alla nostra cultura, beh, sicuramente appartiene alla nostra economia. L'Italia nel 1920 aveva 250 stabilimenti di produzione del baco da seta, secondo al mondo solo dietro la Cina. L'insetto, ricordiamo, è stato sdoganato dalla FAO indicandolo come uno dei possibili alimenti. Quindi, e dal punto di vista del sapore? Ecco, questo è interessante perché il baco, rispetto a molti insetti che abbiamo testato in laboratorio, ha una farina molto chiara, quindi si presta meglio di altre, ad esempio i cricket, i grilli, hanno una texture un po' rigida perché il grillo, ricordiamo agli ascoltatori che quando si parla di insetto si parla di artropo, di esoscheletro esterno, quindi stiamo parlando di gamberetti, di aragoste, sono di quella famiglia. Quindi quando tu macini o triti hai molto scheletro, molta fibra che non va bene nel food, a meno che tu voglia fare un prodotto dietetico. Quindi tornando al baco da seta, farina chiara e sentore di vaniglia, l'ideale per un panettone, ad esempio un prodotto da forno. Contenuto proteico dal 75 all'80%. Poi ci dice in quali paesi già anche a livello culturale queste barriere si sono abbattute e dove invece è più difficile. Maurizio Pessato, dicevamo della sostenibilità attraverso l'innovazione. L'innovazione, lo rivela anche la vostra ricerca, può essere una chiave di accesso proprio e di comprensione anche in questo settore. Sì, innanzitutto era da verificare se quanto l'agricoltura o il sistema dell'alimentazione fosse ritenuto responsabile di non adeguata sostenibilità dell'intera nostra organizzazione, e in effetti è solo negli ultimi anni questo è cominciato a passare, perché prima per sostenibilità o per incidenza sulla sostenibilità si pensava all'industria, si pensava al trasporto, all'energia e non al sistema agroalimentare. Dopo sì, attraverso l'informazione e le riflessioni ci si è resi conto che invece c'è la possibilità di rendere più sostenibile tutto. E c'è ormai una grande attenzione dei consumatori verso queste tematiche. Certo, questo è cresciuto. Quindi lo spreco del cibo, la sostenibilità, sì, eccetera. Questo è cresciuto molto negli anni, parallelamente a un'attenzione all'ambiente e quindi consapevolezza che si può pensare una produzione più sostenibile da una parte, e dall'altra la riduzione di uno spreco che risulta non più tollerabile. Paolo Nosenzo, dicevamo dell'alleanza con Slow Food. Sì, perché proprio questa settimana è stato inaugurato il primo alveare in collaborazione con Slow Food, con la condotta Slow Food qui di Milano, e quindi diciamo che i produttori di Slow Food saranno disponibili a vendere i loro prodotti ogni settimana sul nostro sito, e poi si potranno andare a ritirare ovviamente lì in loco. Questa partnership, questa collaborazione a noi piace molto, anche perché abbiamo tantissime tematiche in comune comunque con Slow Food: supportare il prodotto locale, quindi il territorio, che per noi è uno dei punti fondamentali, proprio quello di aiutare i produttori di piccole e medie dimensioni di ogni zona, fornendogli un altro canale di vendita. Un modo per fare anche la spesa in un modo più sostenibile comunque, perché se si compra locale si evitano ovviamente i camion che fanno avanti e indietro per tutta Italia, e quindi assolutamente questa nuova collaborazione speriamo che sia la prima di molte, ecco, su tutta Italia. Marco Ceriani, concludo con lei. Dicevamo delle barriere culturali, lei ha citato i crostacei, del resto insomma non sono molto diversi, però vengono percepiti in modo totalmente diverso gli insetti in questo senso. Diciamo che è un posizionamento, perché è un po' come far vedere l'immagine di un maiale sgozzato e pensare di vendere la coppa al culatello. L'insetto in bocca è un aspetto giornalistico, nessuno pensa in Europa di mettere l'insetto in bocca nel piatto, nessuno. Quando parliamo di insetti pensiamo all'Asia, molti ignorano che oggi abbiamo Francia, Belgio, Inghilterra, Olanda, Danimarca, tra brevissimo Germania e Svizzera, in cui saranno consentiti l'utilizzo di insetto. Non vedremo l'insetto che saltella nel supermercato, vedremo degli hamburger che oggi possono contenere alghe, possono contenere carne, possono contenere soia o possono contenere insetti. Quindi è, come abbiamo iniziato a dire, una matrice alimentare. Bisogna vedere che packaging e che forma diamo a questo valore. I cuochi, gli chef, li stanno sdoganando in modo molto bello e molto attraente. La FAO ha chiesto a chi mangia insetti nel mondo perché li mangi, il 60% ha risposto perché sono buoni. Non c'è nessuna gamma acida, nessun sentore amaro, soprattutto sono proteici. Il mondo da oggi in avanti ha bisogno non tanto di energia ma di proteine. L'Africa a breve avrà 4 miliardi e mezzo di persone, sarà difficile poterli alimentare tutti. E il rischio è che poi a mercato aperto noi saremo costretti ad importarli se non ci attrezziamo. Beh, io sono stato in Senato recentemente proprio per caldeggiare questa velocità di esecuzione, anche perché dal 1 gennaio 2018 arriverà il nuovo regolamento sui novel food, dove gli insetti non saranno sdoganati tout court, ma certi tipi di allevamenti con certi tipi di mangime potranno utilizzare. Li abbiamo ad esempio in Francia, i nostri cugini, già nella GDO, e quindi è verosimile che gennaio e febbraio noi avremmo già i primi hamburger o i primi polpettoni o i primi panettoni che porteremo noi dall'Olanda. Marco Ceriani, Maurizio Pessato, Paolo Nosenzo, grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Grazie. Essere avere speciale Tutto Food finisce qui. Grazie a Nicola Scevola per le interviste, grazie a Valeria Bernardi in regia, grazie a voi che come sempre ci avete seguito. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.